Cinema Massimo, la storia del cinema con Massimo Pica. Bentornati amici, sono Massimo Pica e vi do il benvenuto alla sesta puntata della prima serie di Cinema Massimo, la rubrica dedicata al cinema portata avanti da me con tutta la redazione di Radio Abawalla. Vi ricordo che Radio Abawalla registra negli studi di Ivrea, siamo in via Arduino, negli spazi di Libera. Quindi una radio libera, una radio web, e tutto quello che ascoltate, tutto quello che noi facciamo lo potete trovare sul nostro sito, sul sito di Radio Abawalla, e in podcast potete ascoltare, riascoltarmi finché non saprete tutto del cinema all'infinito. So che non vedete l'ora, potete metterlo nel cellulare e riascoltarmi per sempre. E vi ricordo che tutte le musiche, tutti i suoni, tutte le canzoni che ascoltate in sottofondo o tra un commento e l'altro sono in Creative Commons, è musica libera, e poi man mano vi forniamo i titoli per poterle cercare e ascoltare quanto vi pare. Una scelta editoriale, sono canzoni, pezzi, musica senza il copyright. Va bene, questo è un dettaglio doveroso da dire, perché noi siamo qui e cerchiamo di fare radio libera, senza vincoli, senza chiuderci dentro copyright o leggi verso le quali non siamo completamente d'accordo. Comunque, a parte questo discorso, siamo alla sesta puntata del... E cosa stiamo parlando? Del cinema di Woody Allen. Abbiamo analizzato tanti film finora, siamo arrivati al 1988, fine anni 80 è un periodo, secondo me, fecondo per Woody, perché tra fine anni 80 e inizio anni 90 tira fuori dei bei film, dei film divertenti, dei film in cui lui torna alla sua voglia di essere comico, di essere simpatico, di essere un umorista. Questo... Sì, tranne nel film di cui vi sto per parlare, che è Un'altra donna. È un film del 1988, è un film molto psicologico in cui Mia Farrow interpreta una donna che va dallo psichiatra praticamente tutto quello che lei dice viene ascoltato da un'altra donna, quindi una persona che affitta l'appartamento di fianco allo psichiatra, e tramite una grata nel muro ascolta tutti i dialoghi di Mia Farrow col suo psichiatra, e per questo si chiama Un'altra donna, cioè un'altra donna ascolta quello che lei dice ed entra in simbiosi con lei. Il film è un film molto serio, molto molto psicologico, e in cui si ricorda, almeno personalmente ricordo, la presenza di Gene Hackman. È uno dei miei attori preferiti, un attore americano bravissimo che ha dato prove di grande grande capacità in tantissimi film. Il film porta a tutte analisi psicologiche e a situazioni molto molto intricate e molto personali, secondo me, da parte di Woody, che adesso non voglio stare a sindacare. Il film non lo trovo tra i suoi migliori, ma un po' come tutti i film in cui lui non c'è, a parte qualcuno, quando lui non c'è alla fine a me non piace, diciamolo, a parte Radio Days e La Rosa Purpurea del Cairo, se lui non c'è non mi diverto. E fortunatamente lui c'è nel prossimo film, è un film del 1989, è un film a episodi che si chiama New York Stories, di cui parleremo a breve. Vi lascio con un pezzo in Creative Commons, ci sentiamo dopo, da Massimo. Ora in onda Oksana Sledge con Pupé F. We'll be right back. Bentornati su Cinema Massimo, seconda puntata della seconda parte della sesta puntata dedicata a Woody Allen. Siamo nel 1989. Ricordo che, come ho già detto più volte, ma ci tengo a sottolinearlo, che le canzoni, i pezzi che ascoltate tra un film e l'altro e tutto quello che sentite in sottofondo è tutto in Creative Commons, musica libera per tutti voi. Stiamo parlando del film del 1989 che si chiama New York Stories. È un film in tre episodi in cui tre grandi registi dirigono degli episodi da circa 40-45 minuti. Quindi c'è Coppola, c'è Scorsese e l'ultimo episodio, che si intitola Edipo Relitto, è interpretato e diretto da Woody Allen. È un film, è una storiella molto molto simpatica e divertente, assolutamente assurda, perché si tratta proprio di una storia assurda in cui un uomo, in cui Woody interpreta praticamente se stesso, alienato dalla madre, dalla presenza ingombrante di questa madre, che lo tormenta e lo critica in tutto quello che fa. Che cosa succede? Succede che una volta lui porta la mamma a vedere uno spettacolo di un comico, di un mago, un illusionista, che infila la madre in una scatola magica e la madre scompare, non si trova più, non esce più dalla scatola, Da un certo punto di vista, inizialmente sembra un dramma, perché alla fine scompare la madre. Ma lui invece si sente liberato, si sente a posto, si sente più giovane, si sente... vive meglio, finché non scopre, suo malgrado, che la madre è ricomparsa. Ma dove? È ricomparsa in cielo. La figura della madre domina dal cielo sul cielo di New York e comincia a parlare con tutti i passanti di suo figlio, raccontando episodi imbarazzanti, situazioni molto molto comiche, in cui ci racconta la vita e tutte le debolezze del figlio. Parla male della fidanzata, parla di questo, si lamenta di quell'altro. E ovviamente i cittadini di New York cosa fanno? Gli danno corda. Lei diventa un vero e proprio fenomeno mediatico. E la storia di Woody, raccontata dalla madre dall'alto dei cieli, diventa il simbolo della città, e lui diventa lo zimbello di tutti quanti, perché non può più camminare per strada senza che qualcuno non lo prenda in giro. È un episodio molto corto, sono sui 40 minuti, però molto molto divertente. È una storia breve che ci introduce al prossimo film del 1989, che si chiama Crimini e Misfatti. È un film anche questo molto divertente, ma diviso in due, spaccato, un film, un vero e proprio film spaccato in due situazioni. Ve lo racconterò a breve, ci sentiamo dopo un pezzo in Creative Commons. Ascoltiamo ora Michael McHearn con What's Inside. Here I am, I know I'm not as you planned, because I'm no knight and I'm no prince, but I am convinced that I can sweep you off your feet with a simple melody. But I'm singing to your balcony, once you open up the doors, once you open up the doors. Inside your heart, inside your mind. What makes you laugh, what makes you cry? Oh, I just wanna see what's inside. There you are, so resistant with your heart on guard. But I'm persistent, no, I'm not giving up. No, I'm not giving in, there's so much to lose. So much to live. Yeah, yeah. Oh, yeah. I just wanna see what's inside, inside your heart, inside your mind. What makes you laugh, what makes you cry? Oh, I like to think that this battle could be won. Let's sing with girls in the form of your words, the shape of your tongue. I aim for you, but I miss the mark. I miss the mark. I miss your heart. I just wanna see what's inside, inside your heart, inside your mind. What makes you laugh? What makes you laugh? I just wanna see what's inside, inside your heart, inside your mind. What makes you laugh? What makes you cry? Oh, I just wanna see what's inside, what's inside, what's inside. Nah, nah, nah. Ok, bentornati amici, siamo nella terza parte della sesta puntata di Cinema Massimo. Stiamo analizzando il cinema di Woody Allen. Siamo arrivati al 1989 su Radio Bawalla, sempre da Ivrea, via Arduino. Io e Marco qui tutta la notte a parlare di Woody Allen finché non ne possiamo veramente più. Comunque, il discorso qual è? Crimini e Misfatti, un film dell'89, un film veramente, veramente piacevole per quello che mi riguarda. Ed è un film in cui troviamo anche degli attori, delle scoperte. Martin Landau, che riceverà anche una nomination all'Oscar per l'interpretazione. Angelica Houston, che interpreta l'amante di Martin Landau nel film. E c'è lo stesso Woody, che interpreta un documentarista fallito che ha un rapporto travagliato con la sorella e con la moglie. Si tratta di un vero e proprio film diviso in due, spaccato in due storie che alla fine si intrecceranno, ma solo nell'ultimo minuto del film, perché i due protagonisti si incontreranno solo alla fine. In realtà le storie non sono legate, sono assolutamente slegate, e sono due storie completamente diverse, da un certo punto di vista quasi opposte. Una storia molto molto seria, molto tragica, quella di Martin Landau, in che racconta il problema suo con un medico affermato, con una famiglia benestante, che però è messo in pericolo questa sua sicurezza dalla presenza di un'altra donna, di un amante, che non vuole farsi da parte, che vuole che lui mantenga le promesse di lasciare la moglie, di lasciare la sua vita per lei, cosa che non fa. Tant'è che lui sarà costretto a rivolgersi a suo fratello, un losco figuro, un gangster, che per soldi eliminerà questa donna. Quindi stiamo parlando di un omicidio su commissione per liberarsi di questa persona. Dall'altra parte il racconto di Woody è molto più frivolo, un racconto basato proprio su questo documentarista fallito che non trova sfoghi, che è una storiella veramente frivola. Sono due momenti completamente opposti, tant'è che c'è addirittura la situazione molto divertente in cui la sorella racconta a Woody di essere stata praticamente, come dice lui, uno sconosciuto ha defecato su mia sorella. Questo è il modo in cui lui ci racconta quello che è successo. I due si incontreranno per caso a una festa, a un ricevimento, solo alla fine. E solo alla fine Martin Landau racconterà a uno sconosciuto la sua storia, come fosse un romanzo, una storia inventata da lui in quel momento lì. Un film divertente e che fa pensare, ve lo consiglio. Ci sentiamo dopo per parlare di Alice. Torna a farci compagnia Daisy May con Citizen's Arrest. Instead of action to solve the whole thing out, 'cause when the crackers come and cry, the whole thing up. And then the workers stop their working, even though they're starving. And some citizens arrest the whole way up. Bentornati amici, sono ancora Massimo Pica, siamo sempre nel cinema, dentro il cinema di Woody Allen, il primo regista che abbiamo scelto per questa rubrica Cinema Massimo. Siamo arrivati ormai agli anni 90 e arriviamo a un film che personalmente devo dire ho riapprezzato rivedendolo ultimamente, si chiama Alice. Alice, la prima cosa che a me viene in mente pensando ad Alice è il manifesto del film, con il primo piano molto intenso di Mia Farrow con questo cappello rosso in testa, ed è veramente il simbolo del film, perché il film gira tutto intorno a Mia Farrow, Alice in questo caso. È una storia divertente, molto simpatica, in cui Alice interpreta questa donna sfiduciata, che non vede un futuro, triste, e che è sposata con William Hurt, attore molto di grido in quel periodo lì, che poi adesso che poi è un po' scomparso, che non abbiamo più visto ad altissimi livelli, e che in seguito a problemi fisici, malesseri, prova a rivolgersi a un fantomatico dottor Young, un ipnotizzatore agopunturista. La cosa divertente è che questo dottor Young comincia a dargli delle pozioni, delle erbe, tutte una serie di cose magiche. La prima cosa è un'erba che la cambia, che la rende aggressiva, tant'è che lei si incontra, lei aveva adocchiato un suo, diciamo, un signore che accompagnava il figlio a scuola, che gli piaciucchiava, e c'è quella scena in cui lei si rende molto aggressiva, molto erotica, quasi al limite del provocatorio, invitando questa persona a incontrarla il giorno dopo. Ovviamente lei poi non andrà perché l'effetto dell'erba svanirà. Poi ci sono altre magie, altre cose che questo dottor Young le fornisce, come la pozione per diventare invisibile, una pozione che tutti vorremmo, dai, diciamolo, per scoprire che cosa la gente pensa di noi. E lei scoprirà purtroppo i tradimenti del marito, scoprirà che cosa pensano veramente le persone di lei, le permetterà di vedere un suo vecchio amante come ridotto in questo momento qui, tutto si porta fino alla fine, in cui il dottor Young, pensate, proporrà ad Alice di darle quello che anche noi vorremmo tutti, la pozione per l'amore eterno. Ma lei la rifiuterà, preferirà vivere da sola in un appartamento senza illusioni e senza un amore artificiale. Un film molto carino e molto apprezzabile. Uno dei pochi film in cui Woody non c'è e che personalmente mi piace. Concluderemo a breve con un film del 91, Ombre e Nebbia, un film in bianco e nero molto particolare. Ci sentiamo dopo, vi lascio con un pezzo in Creative Commons. A dopo da Massimo. Ed ecco Sueño de Daila con Marioneta. Bentornati amici, l'ultima parte della sesta puntata di Cinema Massimo, la puntata dedicata a Woody Allen. Siamo arrivati al 1991, un film Ombre e Nebbia, un film in bianco e nero, un film molto particolare, non eccezionale secondo me, non tra i migliori di Woody, però che si ricorda per alcune presenze molto molto pesanti nel cast, perché abbiamo Kathy Bates, abbiamo Madonna, abbiamo John Malkovich, c'è Jodie Foster, attoroni per questo film non di livello. Secondo me è un film che non ha una gran storia, un film che ci racconta questo mondo del circo in cui Mia Farrow interpreta una donna tradita che poi scappa e va a trovare rifugio in un bordello. Poi John Cusack, altro attorone, soprattutto in quel periodo lì, la vede, si innamora di lei, le offre $700 per una notte con lei, mentre Woody interpreta un impiegatuccio sfigato che viene diciamo tirato in mezzo in una serie di omicidi. È un'interpretazione generale molto molto confusa, secondo me non c'è una storia che ci coglie o che ci rapisce, è tutto molto scuro, come dice il titolo appunto, Ombre e Nebbia, tutto molto scuro, tutto molto cupo. Non è un film tra i suoi migliori, quindi non ne parlo per dovere di cronaca, ma non mi ha colpito particolarmente. Quello che però voglio assolutamente ricordarvi prima di chiudere questa puntata è che chi vi parla è Massimo Pica, sono qui con Marco Bruno, siamo negli studi di Libera in via Arduino a Ivrea, e ovviamente vi ricordo che tutto quello che ascoltate, tutte le puntate che io registrerò, ma tutti gli altri ragazzi che registreranno, saranno disponibili sul sito di Radio Abawalla in podcast. E non si parlerà solo di Woody Allen, questo è il primo autore che ho scelto, si parlerà di altri registi, di altre opere. Ovviamente ogni rubrica di Radio Abawalla avrà il suo blog personale, ogni ragazzo, ogni conduttore radiofonico avrà il suo blog personale. Se volete scrivere, se volete partecipare, se volete venire qua a dirmi non hai capito niente di Woody Allen, te lo racconto io, oppure perché non hai detto questa cosa, se volete venire a dire la vostra, noi siamo qua, non abbiamo nessun problema, possiamo fare una trasmissione aperta su Woody Allen se l'idea vi piace, o su qualsiasi altro regista vi possa venire in mente. Scriveteci, ci sono i blog, ci sono credo poi faremo anche le varie pagine sui vari social network e tutto quello che sarà necessario fare. Mi preme ancora chiudere ricordando che tutti i brani che ascoltate, la musica in sottofondo mentre io sto parlando, è in Creative Commons, musica libera su Radio Abawalla per tutti, dagli studi ovviamente di Libera. A presto, ciao, buonanotte. Avete sentito? Cinema Massimo con Massimo Pica.